Portami via con te, raggiungi stringeremo insieme il firmamento, dove le stelle brilleranno cento, e senza alcun rimpianto voglio scordarmi un tradimento. Vento, vento, portami via con te. Passi lieve come quella fiera, vento d'aprile di primavera, che lontano puoi sfiorarla ancora. Dille che io amo, che il cor mio l'implora, dille che io fremo dalla gelosia, solo al pensiero che la baci tu. Vento, vento, portami via con te, tu che conosci tutte le mie pene, che ancora le voglio tanto bene. Sotto le stelle chiare forse ritornerà l'amore. Vento, vento, portami via con te. Le fiare forse ritornerà l'amore. Vento, vento, portami via con te. Sussurrò il vento come quella sera, perché non torni, e primavera. Fronte a te, sai la 歌舞剧场，我是古月。接下来请欣赏1988年6月多明戈与凯瑟琳巴特尔在东京音乐会的精彩现场。列文指挥梅特罗波利坦歌剧院管弦乐团担任器乐部分的演奏与伴奏。音乐会的曲目有命运之力序曲、歌剧茶花女中的二重唱、离开巴黎的日子、唐帕斯奎莱先生中的咏叹调、姑娘的秋波、拉美摩尔的露琪亚中的咏叹调、你张开了升天的双翼、爱之甘醇中的咏叹调、亲爱的酒、意大利女郎在阿尔及尔的序曲等。下面请连续欣赏。 Thank you. Arriverà. Parigi, o cara, a noi lascerà. stirpe infelice. raccogliete voi. rispetta il mio cenere di chi morì. Deposente la tua virtù, se non bevuta ancora di tanta gioia, già mi colmi il pene. Ma perché mai l'effetto non ne possi io vedere prima che un giorno intero non sia trascorso? Beva sì. O buono, o caro, un altro sorso. A qual di vena in vena, forse calor mi scorre, ma forse anch'essa, forse la fiamma stessa, incomincia a sentir. Certo la sente, me l'annunzia la gioia per appetito, e in me si risvegliò tutto d'un tratto. Essa, ma no, non ci appressiamo dei miei sospiri, non si stanchi però, tant'è domani adorarmi dovrà quel cor spietato. Finora amor non sente. Esulta. Terminerò Thank you.